Bonham, Ringo Starr, Steve Copeland. Beh, loro sono stati maestri della batteria. Amici, fidatevi, guardiamo in faccia la realtà. Non diventerete mai come loro. O meglio, non lo diventerete mai se vi ostinerete a voler suonare la batteria con le vostre braccia e con le vostre gambe. 1, 2, 3, 4. Pane, burro e rock and roll vi dà l'occasione di diventare batteristi rock con la bocca. Iscriviti al provino gratuito inviando un SMS al 335 100 77 77, con la scritta rock con la bocca. Sì! Non perdere l'occasione di riscrivere la storia del rock con la bocca. Pane, burro, rock and roll. 8 e un minutino. Scarso. Pane, burro e rock and roll. 1 minuto alle 8 adesso. La tua colazione rock. Inizia la seconda ora di diretta. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Vi trasporteremo per le orecchie fino alle 9 del mattino. Questo è il nostro obiettivo. Una seconda ora intensa, ricca di appuntamenti. Permettete di salutare i nuovi amici, le nuove amiche che iniziano adesso una nuova giornata. Ciao cari, ciao care, dall'Ariele, da Freak, da Spadino e da tutta la redazione di Pane, Burro e Rock and Roll. Lascio come al solito la linea al film che ci tiene compagnia tutta la settimana, ancora un paio di giorni per il capolavoro di Mel Brooks, Balle spaziali, e poi tanti, tanti appuntamenti in questa seconda ora. Ricordo, c'è fermento perché inizieremo finalmente i provini per diventare musicisti rock con la bocca. Segnalo al volo la lamentela di Mary che arriva via mail, ma in realtà ne erano arrivate anche altre, a onor del vero, via SMS, ovvero cantanti che si lamentano. Però fate fare il rock con la bocca a tutti, a noi no. Ci penseremo e daremo uno spazietto anche ai cantanti. Ehi, non vi accontentate mai però, Salve! Salve, stella solitaria. E ciao, Vincenzino, che vuoi? No. Non è quello che voglio io, è quello che vuole lui. Missa Margherita! Guarda, guarda, stella solitaria e il suo scagnozzo rigurgita. No, rutto. Rutto, rigurgita, è la stessa cosa. Ma non sanno i soldi mica. Non ti preoccupare, pizza, li avrai entro la prossima settimana. No, li voglio entro domani, amico. $1 milione spaziali. $1 milione? Ma è scorretto. È scorretto per chi paga, ma non per chi incassa. Comunque pagherai, o altrimenti... Altrimenti cosa? Rigelo, Vincenzi. Altrimenti pezza ci va in pozza e te fa pezzi. Yeah. sono momenti all'interno di questa trasmissione radiofonica che mi piacerebbe pagare pur di non continuare a fare quello che sto facendo. Ah, è così esplicito? A volte così sì. Papale papale? Sì. Pane, così. Pane al pane, vino al vino, sì. E salame al salame, anche burro volendo. Al burro. Il momento della cultura, Rock FM, altro che i vostri zanichelli, buttateli via. Il vocabolario rock di Roberto Fricantoni, le parole ribelli, perché anche le parole sanno essere rock. Sì, anche le parole sanno opporsi, l'idioma funziona. Le parole sanno opporsi o sanno opporsi? Sanno porsi in opposizione. Ottimo, fantastico. Ha già scelto la parola rock di quest'oggi? La parola rock di quest'oggi, la parola rock che vi propongo è... Aia. Scazzone. Ha un suo senso? Naturalmente sì. Allora ce la spieghi, la prego. Scazzone è il nome dato ad un piccolo pesce d'acqua dolce. Ah sì? Caratterizzato da una testa spinosa con grandi labbra e occhi molto ravvicinati. Allora oggi restiamo sull'ittica. Sì, oggi mi do all'ittica, infatti, in un certo senso. Ha mai pescato un bello scazzone? Naturalmente a Iosa, quintali di scazzoni ho pescato. Tutti i giorni pesco scazzoni. E il nome, sì, guarda caso, sì, l'etimologia, eccola, qui ci viene lì in aiuto, è qui che la volevo. E deriva probabilmente dalla caratteristica forma di pene. Ecco, sarebbe un pesce che assomiglia a un pene. Avrei tanto voluto saperlo, ora lo so, grazie maestro. È stato un piacere. Avrebbe mai pensato che esistesse un pesce a forma di membro? No. Adesso lo sa. E beh, che c'è? Fleetwood Mac, Don't Stop. 8 e 10 minuti primi, il delirio di PBR continua. Vediamo di leggere un po' dei copiosissimi messaggi che arrivano al 335-100-7777. Questo mi era piaciuto particolarmente. L'imprevedibile è il vostro mestiere e la curva degli ascolti si impenna. Mentre quest'altro lo voglio dedicare al nostro radioascoltatore patentato 147, che è colui che questa settimana sta ascoltando il ruggito del coniglio su Radio 2 per studiare la concorrenza. Spero sia all'ascolto in una pausa dal suo lavoro, poi lo sentiremo domani per l'intervento, ma l'SMS è firmato Sandro da Firenze e volevo dedicarlo a lui. Scrive così: la nicchia ha già cominciato a vincere, io sono un ex ascoltatore del ruggito del coniglio e da quando conosco Rock FM ho cambiato radio. Benvenuto Sandro! Tanto guarda, ce l'abbiamo anche noi. Però si chiama Mister Trombetta. Forse ce l'hanno anche copiato, forse, eh. Via mail invece, un abbraccio gigante a Sere, così si firma. Finalmente ho comprato le casse del computer, posso riascoltare le puntate di Pane, Burro e Rock and Roll. Sai cosa ho scoperto? Ho scoperto di aver fondato un nuovo gruppo d'ascolto. Figo! Sì. Commenta anche: il fatto di essermene accorta dopo 2 mesi lo trovo molto rock. Nespa? Oui, oui, oui. Il gruppo d'ascolto di cui parlo è quello delle donne falegname che, virgola, per togliere la curiosità agli scurrili radioascoltatori, con le seghe se la cavano benino. Detto questo, vi saluto e vi ringrazio, Ariele, Frick, Spadino, che rendete la mia prima parte della giornata così piacevole. Alzandosi tutti i giorni alle 6 non è poco, adesso l'avete scoperto anche voi. Prima, per sentirmi meno sola, mi toccava ascoltare Platinette. Ciao Sere, benvenuta anche a te. E concludo con una domanda che al mio cranio ha fatto un effetto strano, effettivamente mi ha mandato in tilt. Ce la scrive il rocchettaro equatoriano a Genova. Una domanda scientifica, scrive via SMS: ho sentito in qualche documentario che i ragazzi che ascoltano musica rock sono più intelligenti della norma. Ma la sua domanda è: ascoltiamo rock perché siamo più intelligenti e scegliamo il rock, o è perché ascoltando il rock si diventa più intelligenti? Fortuna che Frick è di là in redazione, perché se sentiva una domanda così impazziva. Grazie amico! You went away and left me alone. E proseguendo con le notizie, le primizie, le notizie primizie. Ah, quanto mi piace. Belle le assonanze, ah, eh. Quanto pensi, mi piace. Pensi quest'altra che lei usa spesso, sì, e che gliela rubo. Le ansia in ansia. Le ansia in ansia. Le ansia in ansia. Ma vuole forse dire le notizie che tutti scartano e che noi raccattiamo. È vero, ovvero lo strano ma vero. Ovvero il lavoro di Isaac Rizzi. Esatto, il nostro stagista stacanovista. Impagabile, impagato. Quest'oggi ci trasferiamo a Bari. A Bari. Le posso leggere la didascalia? Deve. Troppi litigi tra le suore. Chiuso un monastero nel barese. Tra l'altro era Bisceglie, sì, che io da piccolo traducevo come colui che sceglie due volte. Bisceglie. Fortuna che è diventato più grande. Fortuna poi che sono cresciuto. Complimenti. Succede per l'appunto lì, il monastero di Santa Chiara a Bisceglie è di fatto come se fosse chiuso. Troppi litigi fra le suore di clausura. Nel monastero, scrive chiedendo chiarimenti alla Santa Sede, l'arcivescovo della diocesi di Trani, Barletta e Bisceglie, Monsignor Giovanni Battista Picchierri, non è possibile garantire un sereno proseguimento della vita monastica, motivo la mancanza di vocazioni, ma soprattutto una non facile convivenza fra le monache presenti in monastero, che sembra se le dessero di santa ragione. Ah, si menavano? Sì, in realtà sì, sembra di ma sì. Suorine, ma se non ci date voi un motivo di speranza, un buon esempio, dove andiamo a raccattarli gli insegnamenti? Sì. Dove andiamo? Delle suorine rock, però. Non si disperi, sì, è vero. Sono... Vediamola così. Ecco, l'aspetto positivo della faccenda è che in un certo senso sono molto rock, ma insomma c'è un limite a tutto. Anche al rocchettaro, no. Rocchettaro non ha limiti. Esatto, delle suore sfrenate, via. Delle suore sfrenate, ma ahimè, contundenti. Little Wings, 8 e 20 minuti primi. La nicchia vincerà la sfida. Davide contro Golia. Vinceremo oppure no? Questo non lo sappiamo, ma che si sappia, le abbiamo giocate tutte le carte a nostra disposizione. Sì, anche i colpi più bassi, anche le pruderie, non vogliamo evitarcele. Abbiamo un paio di inviati che ci aiutano a stimolare gli ormoni dei nostri radioascoltatori e delle nostre radioascoltatrici. Sì, sto parlando del reparto Foto Osè, il porno alla radio. Torna a trovarci il mitico camionista Yuri da Ravenna. Ciao Yuri! Ciao Ariele, buongiorno a tutti. Senti, posso chiederti una cosa a inizio sì, telefono? Nell'ultimo collegamento di settimana scorsa sì. Si è chiuso, secondo me, con tua moglie che ti stava un po' sgridando. No, che ero a casa venerdì, devo andare via, allora mi ha chiamato. Oggi può darsi che sei anche in ascolto, sì. Perché sta portando le bambine a scuola, quindi se sei in ascolto le saluto tutte e tre. Allora, salutiamo quella povera donna e anche sì, due bambine. Marisol di 9 anni e Tatiana di 5. Facciamo sapere alle due piccole che Yuri è costretto a fare questa cosa, non la fa di sua spontanea volontà, ok Yuri? Va bene, ok. Intanto salutiamo le piccole. Ciao. Ciao. Ma come ogni camionista che si rispetti, Yuri c'ha i suoi calendari, che tra l'altro gli vengono pure regalati, abbiamo scoperto. Sì, la questione è che inizia a essere difficoltosa, perché sono un po' troppo hard e poco soft. Quindi bisogna andare a cercare proprio. Guarda, noto lo stesso problema anche dall'altra parte, ovvero da Rosy, che si occupa invece dei maschi. Nudi. Anche lei inizia a avere questo tipo di problema, ma Yuri, noi rischiamo lo stesso. Oggi sei sull'hardcore o sul soft? 50-50, diciamo. Caro Yuri, arrapameli come solo tu sai fare. Che mese hai scelto e di chi? Maggio e di una sconosciuta. Guarda, questa cosa, ragazzi, è fenomenale, però. Perché tutti gli altri. Scusa, perdoni, tutti gli altri mass media vi fanno vedere i calendari di quella ballerina là, di quell'attrice là, di quella signora importante là. Noi andiamo alla gente comune. E niente, praticamente è un terrazzino in pietra. Cosa vuol dire? Un terrazzino, ok. Sì, diciamo un terrazzo in pietra. Bionda mora? Bionda. Nome? Bionda, capelli mossi, lunghi. Sì. E niente, sulle sfonde ci sono delle colline verdi e lei praticamente è tutta nuda, con il palmo delle mani appoggiato sulle ginocchia. Ai ai ai ai ai! Quindi si vede tutto. Quasi. Perché? Quasi perché i capelli sono abbastanza lunghi, coprono leggermente il seno. Ah, ok. Taglia, penso, quarta. Naturale anche questa. Yuri, sì. Ragazzi, in questa cosa è preciso e è fondamentale. Naturale. Naturale, penso naturale. Sempre certo. Ma penso, dici, stavolta. Sì, perché sono un po' coperto dei capelli, non riesco, non si vedono bene, ecco. Ho capito. Confronto le altre che si vedevano proprio bene, si poteva essere la certezza. Ecco, come tutte le volte, appunto, parti dai capelli, arriviamo allo sfondo, arrivi al in basso. Indossa una cravatta che scende e copre quello che ho capito. Il basso ventre la copre lascia un bel cravattone, quindi. Un bel cravattone, esatto, che lei essendo piegato un po' in avanti, appoggiando il palmo delle mani alle ginocchia, fa scendere, fa coprire esatto. E ti lascia il dubbio. La nicchia, come dicono gli amici toscani, perché abbiamo scoperto che la nicchia è anche un'altra roba. Ho sentito gli altri giorni. A Ravenna si dice? No, alla Ravenna si dice un'altra cosa e non ti chiedo, come si dice, non mi interessa. Non mi interessa. Caro Yuri, riprendi il tuo lungo viaggio. Dove vai oggi di bello? No, sono sempre qui in zona, se no farei fatica a ascoltarti, perché andando un po' fuori Ravenna, così, verso la bassa Romagna, cioè tipo Rimini, così, va via il segnale. Io fortunatamente giro praticamente dove avete le frequenze. Faenza. Voi riesco a prendervi sempre. Sì. Faenza, Lugo, quindi, Ravenna, sì. Rinunci per girare lì e vi becco sempre. Rinunci agli altri lavori perché sennò non potresti sentirci. No, ogni tanto mi tocca andare in Veneto e lì vi perdo, purtroppo. Yuri, un abbraccio, a presto. Altrettanto, ciao a tutti. Rock è costellata di primi in classifica. Quanti saranno stati i primi in classifica degli Schiantos? Ma che dico, costellata, costernata. Esatto. Da mancati successi. Lei è mai stato alla numero uno di qualche cosa? Beh, della mia classifica sì, lei lo è. La ringrazio, prego. La ringrazio e ricambio di cuore. Ma no, no. Non ci interessa. Bravo. Arrivare primi. Perché lei è... secondo per, per acclamazione, scelta. Per scelta e per destino. E invece nel test attitudinale di quest'oggi, ed era lì che volevo arrivare, ci trasferiamo nel 1984, quando una canzone riesce ad entrare al primo posto delle classifiche americane, ma sentite, dei singoli, degli album e dei film. Record che fino ad allora era riuscito solo ai Beatles. Sapreste ricordare di che canzone stiamo parlando e di chi è? Ipotesi A: The Wall dei Pink Floyd con il film omonimo. Oppure ipotesi B: Magic Dance di David Bowie nel film Labyrinth. Oppure ipotesi C: Purple Rain di Prince con il film omonimo. Quale di queste tre canzoni nell'84 è stata al primo posto dei singoli, degli album e dei film? La risposta esatta ve la diamo tra poco, la soluzione a poco dopo.